tutto Israele si radunò presso Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già nel passato, quando c'era re Saul, tu guidavi Israele nei suoi movimenti. Inoltre, il Signore tuo Dio ti ha promesso: tu pascolerai il mio popolo Israele e sarai principe sul mio popolo Israele. Tutti gli anziani di Israele si radunarono presso il re a Hebron, e Davide concluse con essi un patto in Hebron, al cospetto del Signore. Allora unsero Davide come re su Israele, secondo la parola del Signore pronunciata per mezzo di Samuele. Davide, con tutto Israele, marciò contro Gerusalemme, cioè Jebus. Ivi risiedevano i Jebusei, abitanti della regione. Gli abitanti di Jebus dissero a Davide: non entrerai qui. Ma Davide espugnò la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Egli aveva detto: chiunque colpirà per primo i Jebusei diventerà capo e principe. Salì per primo Joab, figlio di Zeruia, che divenne così capo. Davide si stabilì nella fortezza, che per questo fu chiamata città di Davide. Riedificò poi la città tutt'intorno, dal Millo fino alla periferia, mentre Joab restaurò il resto della città. Davide diventava sempre più potente, e il Signore degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei prodi di Davide, che insieme a lui divennero potenti nel suo regno, e insieme con tutto Israele lo avevano fatto re, secondo la parola di Dio nei riguardi di Israele. Ecco l'elenco dei prodi di Davide. Jasobeam, figlio di un cacmonita, capo dei tre. È colui che brandì la sua lancia contro 300 vittime in una sola volta. Dopo di lui Eleazaro, figlio di Dodo, la cochita. Era uno dei tre prodi. Si trovò insieme a Davide a Pas Dammim, dove i Filistei si erano radunati per far guerra, e dove c'era un appezzamento di terra pieno di orzo. Mentre la truppa fuggiva di fronte ai Filistei, egli si piantò in mezzo a quel tratto di campo e lo difese, colpendo i Filistei. Così il Signore operò una grande vittoria. Tre dei 30 capi scesero sulla roccia presso Davide, nella grotta di Adullam, mentre il campo dei Filistei si era stabilito nella valle di Refaim. Davide si trovava allora nella fortezza, mentre un presidio dei Filistei si trovava a Betlemme. Davide ebbe un desiderio, che formulò così: «Chi mi darà da bere acqua della cisterna di Betlemme, che si trova presso la porta?» I tre allora, fatta irruzione nel campo dei Filistei, attinsero l'acqua dalla cisterna di Betlemme, che si trova presso la porta. La portarono e la presentarono a Davide, che però non volle berla, e ne fece una libazione al Signore. Egli disse: «Mi guardi il mio Dio dal fare una cosa simile? Posso forse bere il sangue di quegli uomini insieme col prezzo della loro vita?» Difatti l'hanno portata a prezzo della loro vita. Per questo non volle berla. Ecco ciò che compirono i tre prodi. Abisai, fratello di Joab, era capo dei 30. Egli brandì la sua lancia contro 300 vittime, facendosi un nome fra i 30. Fu doppiamente stimato fra i 30 e fu loro capo, ma non raggiunse i 3. Benaia, da Kazbeel, figlio di Joiada, uomo valoroso, ricco di prodezze, uccise i 2 figli di Ariel di Moab. Inoltre, egli in un giorno di neve discese in una cisterna ed ivi abbatté un leone. Fu lui che uccise anche un egiziano dalla statura alta 5 cubiti, che teneva in mano una lancia come un subbio da tessitore. Egli scese contro di lui con un bastone, strappò la lancia dalla mano dell'egiziano e lo uccise con quella sua stessa lancia. Ecco ciò che compì Benaia, figlio di Joiada. Egli si fece un nome fra i 30 prodi. Fu onorato più che i 30, ma non raggiunse i 3. Davide lo costituì capo della sua guardia di corpo. Ecco i prodi valorosi: Asael, fratello di Joab, Elcanan, figlio di Dodo di Betlemme, Sammot di Carod, Chelez di Pelet, Ira, figlio di Ikkes di Tekoa, Abiezer di Anatot, Sibbecai di Cusa, Ilai di Akok, Macrai di Netofa, Keled, figlio di Bana di Netofa, Itai, figlio di Ribai di Gabaa, dei figli di Beniamino, Benaia di Piraton, Curai di Nacale Gaas, Abiel di Arbot, Asmavet di Bakurim, Eliakba di Saalbon, Yasen di Gun, Jonata, figlio di Sage, di Carar, Achiam, figlio di Sacar, di Carar, Elifelet, figlio di Ur, Efer di Mechera, Achia di Pelon, Chesro del Carmelo, Naarai, figlio di Esbai, Gioele, fratello di Natan, Mibcar, figlio di Agri, Zelec l'Ammonita, Nacrai di Berot, scudiero di Joab, figlio di Zeruia, Ira di Jeter, Gareb di Jeter, Uria l'Ittita, Zabad, figlio di Aclai, Adina, figlio di Siza il Rubenita, capo dei Rubeniti, e con lui altri 30, Canan, figlio di Maaca, Josafat di Meten, Uzia di Astarot, Sama e Jeiel, figli di Cotam, di Aroer, Jediael, figlio di Simri, e Ioca, suo fratello, di Tisi, Eliel di Macavim, Ieribai e Osea, figli di Elnaam, Itma il Moabita, Eliel, Obed e Yaasiel di Zobah.